Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E te pareva che oltre ai danni del freddo, del gelo, le inefficienze anche nella rete ferroviaria, per carità, nella gestione del Comune di Roma, ci si dovesse mettere anche il gas? Era 4 anni che non affrontavamo più il problema della crisi del gas. Invece, nonostante la rassicurazione arrivata all'inizio, a questo punto oggi, come vi hanno raccontato anche i nostri GR, il Ministero dello Sviluppo Economico parla di situazione del gas critica, anche se monitorata, e poi poco fa ha deciso di ridurre l'approvvigionamento all'industria, invece al sicuro quello per le famiglie. Ne parleremo più avanti, anche perché ai nostri microfoni ieri il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto: siamo in emergenza, abbiamo reagito all'emergenza aumentando le importazioni di gas dall'Algeria e dal nord Europa, quindi non avremo problemi fino a mercoledì. Da giovedì possibili distacchi alle aziende. Su questo è intervenuta anche la Presidente di Confindustria Marcegaglia. Occorre mettere mano alle riserve di gas, mentre l'Europa resta in contatto con l'Italia. Di questo parleremo alle 18:10, ma anche parleremo della Grecia, perché si cerca di capire se l'accordo più volte annunciato, scadeva l'ultimatum questa mattina alle 11. Non si capisce, fermo restando che ormai l'ultimatum è scaduto, ma mentre fioccano le minacce di se la Grecia non riuscirà a trovare un accordo su come ripagare il suo debito, accordo con i privati soprattutto, l'alternativa è l'espulsione dall'euro, ma insomma non si capisce se l'accordo sia addirittura d'arrivo e quindi manchino alcune limature oppure sia ancora in alto mare, ma ne parleremo più avanti. Proseguono comunque le trattative, i rappresentanti sono governo greco, partiti, sindacati greci, ma anche i rappresentanti della Troica, quindi Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e Unione Europea. Per sbloccare infatti il piano da 130 miliardi di euro, i tre organismi, cioè Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario, chiedono al governo greco nuove misure di austerity, per esempio il taglio della tredicesima anche per i dipendenti privati, già i pubblici l'hanno avuta, o l'abbassamento dei salari minimi. Il termine tecnico per scongiurare il fallimento della Grecia è il 13 febbraio, perché se non si sbloccherà la tranche per la Grecia, a quel punto la Grecia non potrà rimborsare i titoli in scadenza e sarà fallimento tecnico, oltre che, diciamo, concreto c'è già, ma anche formale. Ancora, per quello che riguarda Sarkozy, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy hanno detto che la Grecia deve assumersi le sue responsabilità. In apertura invece parleremo dell'agricoltura, un mondo che è molto in subbuglio in questi giorni, non solo per i 100 milioni di euro di danni del maltempo, ma anche perché c'è il rischio che il mondo agricolo paghi una doppia ICI, una doppia IMU, non solo sui terreni ma anche sui fabbricati, con un danno stimato in 1,5 miliardi. E ne parliamo perché si è chiusa ieri sera la 110ª fiera dell'agricoltura a Verona, una delle fiere più antiche d'Italia, 110 anni appunto. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Volete sapere se Focus Economia sarà in diretta dalla BIT? Sì. Saremo il venerdì 17, se non ricordo male, vado a memoria, poi vi darò conferma. La Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Banco Popolare più 3,5, Ubibanca più 2,12 come Monte dei Paschi, l'1,80 lo guadagna Ferragamo, ma anche Unicredit, l'1,60 il rialzo di Telecom, l'1,5 quello di Assorin, l'1,2 quello di Azimut e l'1% quello di Snam. Più consistente il calo su Buzzunice, meno 5,14%, Autogrill meno 4,30%, Tenaris meno 3% come Fiat Industrial, Parmalat meno 2,80%, Finmeccanica meno 2,30%, Fiat Auto meno 1,90%, Intesa San Paolo meno 1,60%, Atlantia meno 1,30% come Exor, ma anche Steam Microelectronics e la Popolare di Milano. Chiudiamo con Mediolanum, Mediobanca e A2A che perdono tutte e tre l'1,2%. L'indice complessivamente è debole, ma niente di preoccupante, meno 0,30%, Parigi un po' peggio, meno 0,60%, Francoforte invariata, Londra come Milano meno 0,30%, l'America perde lo 0,20%, l'euro è stabilmente sopra quota 1,31%. Oro a 1738 dollari l'oncia, quindi sempre alto, petrolio sotto i 100 dollari al barile, 96,5 dollari al barile. Però attenzione, e questa non è una bella notizia, continua la discesa del Baltic Dry Index. Qualcuno se lo ricorderà, questo indice è fondamentale per capire come va la congiuntura economica. È l'indice che misura il costo per trasportare le merci via mare con un cargo. Praticamente prende, se non ricordo male, 21 rotte mondiali tra le più utilizzate, guarda l'andamento dei prezzi e si formula questo indice. Chiaramente più sale questo indice, vuol dire che è caro trasportare merci, perché c'è tanta domanda di trasporto. Quando questo indice crolla, vuol dire che i cargo hanno difficoltà a imbarcare container, viaggiano semivuoti, quindi cala il prezzo per il trasporto. Ebbene, ahimè, siamo arrivati al livello più basso perfino dal dicembre 2008, che fu un record storico allora, dopo Lehman Brothers, quando tutto si fermò, è sceso a 663 punti. Oggi siamo a 647 punti. Pensate che, e quindi vuol dire che è crollato al minimo storico il costo per trasportare merci. Pensate che negli ultimi due mesi l'indice ha perso il 60% del suo valore, per cui proprio la frenata c'è stata da novembre in poi. Buone notizie invece dal nostro spread, ossia la differenza tra quanto costa a noi indebitarci e quanto invece non costi la Germania, che è il più affidabile di tutti in Europa come Stato, come debito sovrano. Allora, la differenza tra noi e la Germania è scesa a 371 punti base, eh? E questo inizia a essere, speriamo, ma inizia ad essere, è da un po' di giorni ormai che lo spread resta sotto i 400 punti. Evidentemente le riforme del governo Monti, piaccia o non piaccia, stanno ottenendo i loro effetti. È vero che scende anche in Spagna, ma non era scontato che scendesse anche in Italia. No, questo lo dico come risposta a chi continua a dire: ecco, lo spread è rimasto come ai tempi di Berlusconi. No, non è vero, ne abbiamo parlato anche con il ministro Brunetta, la pensiamo in maniera diversa. È rimasto alto finché non sono state fatte alcune riforme e finché non è intervenuta anche la Banca Centrale Europea. Sentiamo comunque il segretario, il numero uno dell'OCSE, Miguel Ángel Gurría, commentare le riforme italiane in atto dopo l'incontro questa mattina con il Premier Mario Monti. L'Italia ha avviato un programma di riforme molto ambizioso, ma indispensabile per rafforzare la finanza pubblica, rilanciare la crescita e migliorare la competitività della sua economia. Il programma di riforme è molto articolato e ben concepito. Si basa sul principio dell'azione su più fronti, che è fondamentale per migliorare la performance dell'economia e il benessere degli italiani. Il lavoro è in corso. Già molti provvedimenti sono stati adottati o sono in cantiere. Questi comprendono misure per rafforzare la concorrenza, ridurre il dualismo nel mercato del lavoro, accrescere le opportunità di lavoro dei giovani, aumentare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, migliorare il sistema fiscale e la lotta all'evasione, sostenere l'investimento in infrastrutture e innovazione. Queste sono sfide cruciali che l'Italia deve affrontare con una pronta risposta. Sì, c'è qualcuno che scrive ma il Baltic Dry Index magari è sceso perché si è trovato un modo più efficiente per trasportare le merci. E come, scusi? Cioè, oltre al cargo, io non so, c'è l'aereo, ma è un po' più caro della nave, e poi il Nautilus, non so, come trasportiamo queste merci? No, è sceso perché si sono bloccati evidentemente il trasporto merci, poi le rotte principali sono chiaramente quelle pacifiche e quelle atlantiche, no? È calato il numero di merci trasportate, quando cala il numero di merci trasportate cala anche il prezzo richiesto. Ma vi ricordate a fine dicembre 2008 quando davanti al porto di Anversa si posizionarono centinaia di cargo perché era più economico stare al largo che attraccare e pagare i diritti di Nolo e per merci che non riuscivano a scaricare, tanto era bloccata la situazione. Torniamo a noi, questo è il commento di Gurria, l'intervento di Mario Monti, Presidente del Consiglio, sulla riforma del mercato del lavoro, che tutti abbiamo capito che è il prossimo obiettivo del governo, e ha detto il governo non vuole esasperare alcunché. Mi sfugge completamente quale potrebbe essere la ragione di un intento da parte del governo di esasperare alcunché in generale, particolarmente in una materia importante, sensibile, socialmente cruciale come il mercato del lavoro. Stiamo cercando con la nostra riflessione, col dialogo con le parti sociali, con la consultazione di esperienze in tanti altri paesi, di trovare quale sia la via migliore perché anche gli istituti del mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali possano dare il loro contributo alla crescita dell'economia italiana e soprattutto ad aggredire quel drammatico problema che anche il segretario generale Gurria ha sottolineato della disoccupazione giovanile. E oggi sul tema della riforma del mercato del lavoro è tornato il ministro Elsa Fornero. Bisogna spalmare le tutele su tutti, non promettere il posto fisso che non si può dare. Questo vuol dire fare promesse facili, altrimenti dare illusioni. E poi non vogliamo che non esista la possibilità di licenziare, ma che chi è stato licenziato sia aiutato dalle istituzioni dell'azienda a trovare in tempi ragionevoli una nuova occupazione. Però una cosa fatemela dire, è vero che ci sono delle rigidità molto forti in Italia, penso all'articolo 18 sui licenziamenti aziendali, ma non è che in questo paese non si possa licenziare, cioè purtroppo ci sono 380.000 persone che hanno perso il posto di lavoro in questi 3 anni, cioè sembra che qua nessuno abbia perso il posto di lavoro, no, le crisi aziendali, dopodiché si può mettere maggiore flessibilità anche in uscita, dare maggiori garanzie anche all'ingresso, chiedere alle imprese che quando hanno un dipendente per 2-3 anni lo strutturino come rapporto professionale, non lo tengano sempre interinale perché così non va bene, è uno sfruttamento. Insomma, dire che proprio che non c'è la possibilità di licenziare in questo paese con il picco di disoccupazione che abbasso, ma allora, sul Baltic Dry Index vedo che interessa l'oggetto. Alcuni chiedono, utilizzare la mongolfiera, sì, non è male. Ma c'è chi scrive sullo spread. Volevo riprendere il messaggio. Dunque, Barisoni, lo spread scende perché l'alta finanza ha deciso così, ovvero di spennare sino all'ultimo centesimo gli italiani. Ma che cosa stai dicendo? Lei evidentemente ha molte più informazioni di noi, mi chiede a questo punto che cosa ascolti questo programma a fare, se lei sa già che lo spread scende perché l'alta finanza, qual è l'alta finanza? Dove sta l'alta finanza? Perché c'è anche la bassa finanza, la media finanza. Ah, Bilderberg, il complotto pluto giudaico massonico, quella roba lì, vabbè. Dai, primo tema, l'agricoltura, andiamo seri e terra a terra, visto che ci sono alcune braccia anche rubate all'agricoltura, a giudicare dagli sms. Si è chiusa ieri la 110ª edizione della Fiera Agricola di Verona, appunto 110 anni che c'è questa bellissima fiera. Il focus dell'edizione del 2012 è stato l'agricoltura sostenibile a livello ambientale ed economico. 1300 espositori da più di 20 paesi, oltre 100.000 presenze nonostante il freddo, il gelo, 10 padiglioni per 5 aree tematiche, delegazioni estere e compratori da 46 paesi. Salutiamo allora il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il settore agroalimentare vale il 16% del PIL, cioè 246 miliardi di euro. La sola agricoltura, però, la produzione agricola, ha un valore molto molto più basso, 48,8-49 miliardi, siamo circa al 3% del PIL. Gli addetti sono il 5% di tutti gli occupati in Italia, 1.200.000. Le aziende agricole italiane sono 1.630.000. Però anche qui, come in altri settori, come nel settore del vino, come nel settore della meccanica e di altri settori, notiamo e registriamo una bassa dimensione, piccola dimensione delle imprese italiane. Pensate che la dimensione media di un'impresa agricola italiana è 8 ettari, in Francia è 55 ettari. Però noi, pur avendo il 7% solo della produzione della superficie agricola europea, produciamo per il doppio quasi, il 13%. Che cosa ha significato parlare di agricoltura sostenibile? Fra poco ci arriveremo anche con chi rappresenta il mondo della chimica, ma significa unire un mix di elementi, Presidente? Certamente sì, significa declinare la sostenibilità ambientale, come giustamente è stato detto, che è uno dei focus della nostra società, ma anche della nostra economia, con una sostenibilità economica senza la quale appunto non c'è ambiente. Noi sosteniamo che senza agricoltura il nostro ambiente peggiorerebbe decisamente, ma per avere gli agricoltori presenti sul territorio dobbiamo garantire una sostenibilità economica. Oggi questa sostenibilità viene garantita dall'utilizzo di tecnologie che abbiamo visto ampiamente rappresentata alla Fiera Agricola di Verona, una tecnologia che ci deve aiutare ad essere sempre più competitivi e sempre più all'avanguardia in tutti i modi con cui oggi si fa agricoltura, quindi dalla produzione di materie prime alla produzione di energia, a tutti i modi con cui si è oggi agricoltori, che sono tanti anche. Tra l'altro, il valore aggiunto medio per ettaro coltivato in Italia è il doppio della media europea. Cioè, nel settore ortofloricolo, per ogni ettaro, sì, ettaro di superficie, le imprese in Europa registrano un reddito medio di 5.400 euro. Da noi si va oltre i 18.000 euro. Certamente la nostra è un'agricoltura altamente professionalizzata ed è uno dei temi di cui si è anche discusso nel momento in cui si parla di riforma della politica agricola comunitaria. L'agricoltura italiana è un'agricoltura che fa i conti su una dimensione piccola e compensa questa piccola dimensione in termini spaziali con una grande capacità di produrre valore aggiunto. Si è parlato bene di 50 miliardi di euro, che sono forse pochi rispetto al PIL nazionale, ma costituiscono il floor, la base, per un agroalimentare di grande successo. La sfida è di accompagnare verso una dimensione competitiva ancora maggiore, se non in termini di superficie, in termini economici, le nostre aziende. Ecco, ancora due domande però, perché una riguarda l'attualità più stretta, cioè i danni dal maltempo. Abbiamo letto diverse stime, 100 milioni di euro più o meno, mi sembra che le tre associazioni, cioè voi, Coldiretti, la CIA, siete abbastanza d'accordo su questo? Sì, siamo abbastanza d'accordo, anche se io devo dire che oggi stilare una graduatoria dei danni è purtroppo prematuro. Quello di cui siamo molto preoccupati sono le minime termiche, che potrebbero addirittura influire sui raccolti primaverili e sulla frutta, anche sulle gemme delle piante della frutticoltura, di cui l'Italia è leader. Quindi purtroppo dobbiamo contabilizzare i danni nei prossimi giorni. Il dato che ho raccolto oggi è che in una notte si sono bruciati qualcosa come 10 milioni di euro di ortofrutticoli, perché le temperature bassissime fino a meno 18 che abbiamo registrato in certi areali hanno penalizzato fortemente le colture orticole. Certo, tant'è che si stima che sia stato danneggiato, distrutto il 5% tra alberi da frutto, olivi e viti. Ebbene, il 10% delle strutture aziendali, serre, stalle, magazzini, cascine e ripostigli, per cui insomma, oltre a 50.000 imprese agricole paralizzate e il 25% dei raccolti in campo aperto andati, se non distrutti, pesantemente penalizzati. L'altra invece calamità, dal vostro punto di vista, riguarda l'IMU agricola, cioè l'ICI che si paga, che devono pagare anche gli agricoltori. Il governo appunto l'ha reintrodotta, ma perché siete così arrabbiati per questa IMU? Beh, intanto vi permetto di fare una battuta. Mentre al gelo non possiamo opporci ed è frutto del clima, quindi di un ambiente esterno, l'IMU la fanno gli uomini e quindi siamo piuttosto contrari ad un'applicazione che vede una doppia tassazione. Vede, noi siamo tassati dal punto di vista patrimoniale sia sui terreni e la novità di quest'anno, assai poco gradita, è di un'imposizione fiscale appunto di un'IMU sui fabbricati rurali, il cui valore è già per la fiscalità agricola ricompresa nel valore fondiario dei terreni stessi. Stiamo in questi giorni ragionando con il Ministero dell'Economia per far capire quanto questa imposizione sia insostenibile da parte delle aziende agricole. Devo dire che in questi giorni si è aperto un tavolo tecnico che sta analizzando appunto l'impatto, che è devastante. 1,5 miliardi di euro di extragettito possibile per lo Stato. E ci pare proprio insostenibile per le aziende agricole. È vero, cioè, lei dice noi paghiamo già l'IMU sui terreni dove c'è il fabbricato, ho capito bene? Sì, esattamente. La fiscalità attuale dell'agricoltura prevede che il valore dei fabbricati sia inserito nella categoria catastale dei terreni. Quindi tassarle i terreni e poi tassare anche i fabbricati rappresenta una doppia imposizione. Teniamo poi conto che i fabbricati agricoli in aperta campagna non sono beni succedanei, ovvero una stalla vuota è impensabile oggi che è frutto di una storia che venga tassata al pari di un qualsiasi altro tipo di fabbricato. Sì. Quindi no, ho capito benissimo la vostra posizione. Una battuta finale, però possiamo farla sulle dichiarazioni dei redditi, perché quelle del mondo dell'agricoltura, Presidente, sono delle volte ridicole. Cioè, sembra che gli agricoltori italiani siano tutti quanti sulla soglia di sussistenza. Io capisco tutto, però. No, infatti quello che noi sosteniamo è che oggi certamente è venuto il momento di una valutazione complessiva del sistema. Noi riteniamo che questo sistema di tassazione, che prescinde dai redditi veri ma che garantisce un gettito terzo allo Stato, sia quello più confacente al sistema agricolo. Tuttavia siamo assolutamente consapevoli che oggi occorre fare una valutazione che consenta di redistribuire meglio il carico fiscale anche all'interno del mondo agricolo. Grazie al Presidente di Confagricoltura, quindi per l'aggiornamento anche su questa 110ª fiera agricola. Grazie Mario Guidi. Grazie a voi. E nel ringraziare il Presidente Guidi saluto anche il Presidente di Agrofarma, Federchimica, Andrea Varella, buonasera anche a lei. Buonasera. Dunque, come dicevamo con Guidi, questa edizione della Fiera Agricola ha avuto al suo centro l'agricoltura sostenibile a livello ambientale e economico. Si sa che per avere un'agricoltura sostenibile, e cioè che poi sostenga il fabbisogno alimentare, oltre che si sostenga all'interno di un'area geografica, il contributo della chimica è un contributo fondamentale. È inutile nascondersi però che quando parliamo di chimica nell'agricoltura si pensa subito agli fitofarmaci e quindi a qualcosa che fa male, a qualcosa che è dannoso, per non arrivare all'OGM che non vorrei trattare in questo momento. Qual è il ruolo, diciamo, della chimica? Dove si pone il confine tra un'applicazione della ricerca chimica nel mondo agricolo che permetta poi le produzioni che noi ci attendiamo, produzioni di massa, e una distorsione della produzione agricola come frutto dell'utilizzo della chimica? Beh, diciamo che la chimica innanzitutto significa innovazione, ricerca, poter produrre di più e meglio, quindi l'ottica dell'agricoltura sostenibile grazie appunto di tutti i mezzi tecnici che ci sono messi a disposizione. Gli agrofarmaci ovviamente sono uno dei principali di questi mezzi che abbiamo a disposizione, che significano appunto utilizzare nuove tecnologie, nuove tecniche che ci possono permettere di produrre meglio. Non dimentichiamo che negli ultimi 30 anni, se non avessimo avuto a disposizione questi mezzi, probabilmente non potremmo produrre tre volte tanto quello che producevamo 30-40 anni fa. Ma la qualità di quello che produciamo, perché è indubbio che la chimica, quindi l'agrofarmaco, permette una produzione più intensa, ci si interroga sulla qualità della produzione. Ma direi che non è soprattutto quantità, ma è anche e soprattutto qualità. Non dimentichiamo che fino ad alcuni anni fa si moriva anche per alcuni cibi che avevano tossicità intrinseche che portavamo sulle nostre tavole, e quindi oggi credo che questo problema non ce lo ponga più, proprio grazie alla chimica che ha permesso di evitare tutte queste, diciamo, tossicità di certi cibi che venivano prima. Sì, però prodotti. Quando si parla di chimica nel mondo agricolo, penso soprattutto all'ortofrutta, chiaramente in questo caso si pensa sempre, insomma, ai pesticidi, cioè a un certo momento qualcosa che è poi dannoso per me come cliente, cioè che permette la produzione, ma poi è dannoso per me dal punto di vista dell'assunzione. Ma vede, proprio la nostra industria in tutti questi anni si è preoccupata di produrre prodotti agrochimici, appunto agrofarmaci, sempre, diciamo, in linea con l'ambiente, in linea con le necessità, appunto, del consumatore finale. Forse siamo una delle poche industrie che si vanta di aver ridotto la quantità di prodotti impiegati di quasi un terzo negli ultimi 20 anni. Cioè l'utilizzo di fitofarmaci, diciamo, nella loro quantità sono diminuiti, proprio perché mettiamo in commercio dei prodotti sempre più efficaci, ma diciamo più rispettosi dell'ambiente, quindi anche del consumatore finale. Ecco, c'è un dato per concludere, Presidente Barella, che mi ha un po' sorpreso. Il furto di agrofarmaci nel 2011 è quasi triplicato, cioè siete arrivati a 1.370.000 euro di furti, a cui si sommano altri 30 milioni di euro circa di prodotti taroccati, quindi sostanzialmente falsi. Ma insomma, veramente c'è tutto questo mercato per i furti e anche per la falsificazione di agrofarmaci? Purtroppo sì, devo dire che la nostra industria ultimamente è parte agrofarma, quindi come associazione di tutte queste industrie di prodotti che producono agrofarmaci, direi si sta impegnando sempre di più anche alla collaborazione attraverso i NAS, i NAC, con i quali vogliamo cercare di diminuire o di far diminuire queste contraffazioni e questi furti di prodotti chimici, agrofarmaci per l'agricoltura, che ahimè sono aumentati e stanno aumentando a dismisura negli ultimi anni. Quindi chiediamo anche la collaborazione di tutti coloro che stanno attorno a questo mondo, vedi i rivenditori, la distribuzione, vedi le associazioni di categorie, ma vedi anche gli utilizzatori, agricoltori, perché ci possono permettere di minimizzare questi eventi. Grazie Presidente di Agrofarma Andrea Barella. Grazie a voi. E adesso c'è il metro, la pubblicità e poi la borsa. C'è qualcuno che chiede lo spread. No, non l'abbiamo dimenticato, ma glielo ridico volentieri. È 370 punti, è sceso ulteriormente, quindi lo spread italiano. La battuta braccia rubata agricoltura, no, è perché alcune persone sarebbero più utili laddove serve il mondo agricolo, a tutto il nostro rispetto, come avete appena visto, ed era riferita ad alcuni commenti. Chi dice più notizie, meno commenti, guardi che questo non è un GR, è un programma. Ecco, la differenza è anche qui. Meteo. :17:42, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcune risposte ad alcuni ascoltatori. No, sulla risposta mia sull'alta finanza prima era volutamente sarcastica, non so se spocchiosa, perché abbiamo fatto decine di puntate sulla lobby di Wall Street, criticando anche dentro l'amministrazione Obama chi comunque tornerà a lavorare in quel luogo. Penso di non avere mai risparmiato critiche al ministro, al tesoro americano, al segretario del tesoro Timothy Geithner. Abbiamo raccontato in decine di occasioni quanto i top manager, l'ultima venerdì scorso, abbiano ripreso a guadagnare cifre anche più alte, top manager della finanza e delle banche, rispetto a prima. E abbiamo raccontato i conflitti di interesse che vi sono, a nostro avviso, anche dentro l'agenzia di rating. Però quello che non si può dire è quello che ha scritto un ascoltatore prima, cioè che lo spread cala perché l'alta finanza si è messa da, che poi alta finanza così non vuol dire nulla, si è messa d'accordo per farlo calare per poi tornare a tosarci. Allora, se lo spread è alto, la risposta era lo spread è alto perché Monti non serve a nulla, avete visto che non serve a nulla il governo Monti. Se lo spread cala, non è merito del governo Monti, è merito tra virgolette dell'alta finanza che vuole spennarci. Non vi va mai bene, dico questi ascoltatori. In realtà ci sono state un insieme di iniziative, la Banca Centrale Europea di Mario Draghi con il prestito da 480 miliardi alle banche europee a 3 anni all'1%, e queste sono le iniziative europee, anche il tentativo di accordo verso il fiscal compact, quindi leggi di bilancio più ferme, diciamo, ma soprattutto sottoscritte nuovamente dai paesi dell'area euro, come voleva la Germania. E poi però ci sono state le iniziative dei singoli paesi. È innegabile, lo racconta la stampa estera da settimane, che il governo Monti goda, secondo tutti gli osservatori internazionali, di maggiore credibilità, che le riforme fatte, lo ha ammesso ai nostri microfoni la settimana scorsa anche il ministro Brunetta, le riforme fatte dal governo Monti, il PDL nel governo nell'ultima fase aveva difficoltà se non l'impossibilità di farle, pensate alle pensioni con l'opposizione della Lega, alle liberalizzazioni con l'opposizione della lobby degli avvocati e quant'altro. Allora, tutto questo è, cioè, merito del governo Monti e merito dei due partiti principali, le tre coalizioni che lo appoggiano. Non mi sembra che sia così strano. Certo che se ogni volta che lo spread cala bisogna dire che non è così, che è l'alta finanza che sta complottando, vabbè. Borsa. Meno 0,30 fisso il FTSE MIB, meno 0,66 Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,22, l'America meno 0,30, euro quota 1,31,10. Oggi andamento molto diverso tra i titoli, anche all'interno degli stessi comparti, penso al bancario, perché Banco Popolare guadagna il 3,11, il Monte dei Paschi il 2,60, UbiBanca guadagna l'1,80 e poi UniCredit l'1,60%. Invece Intesa San Paolo perde il 2,40%, la Popolare di Milano perde l'1,80%. Partiamo dalle banche, poi ci sono anche altri titoli. Chiaramente Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Le banche, andamenti completamente opposti. Sì, andamenti completamente opposti, diciamo che la migliore è stata, come tu sottolineavi, il Banco Popolare, questo annuncio peraltro già chiacchierato da qualche giorno di un'offerta di riacquisto su una serie di obbligazioni da parte del Banco Popolare per un ammontare massimo nominale di 4 miliardi, era una notizia attesa, ricordiamo che la mossa era già stata messa in atto da Unicredit a fine di gennaio e aveva dato una forte spinta al titolo, il Banco Popolare l'ha annunciata, ha guadagnato il 3,1%, mentre Monte dei Paschi è andato in scia continuando quella ripresa del titolo che è iniziata a fine gennaio. Oggi i giornali ipotizzavano anche di fondi di private equity interessati a partecipare a un'eventuale ricapitalizzazione, ma ricordiamo che per le banche l'occhio è puntato su metà settimana sulla nuova pronuncia dell'EBA, cioè sull'European Banking Authority, per quanto riguarda i requisiti di capitale necessari. In negativo invece Mediobanca, Intesa San Paolo, che sul finire della seduta ha annunciato un'operazione simile a quella del Banco Popolare, cioè di riacquisto di obbligazioni, in discesa anche il risparmio gestito, come ad esempio Mediolanum, che ha perso l'1,44%, per cui un andamento in chiaro scuro dei bancari nel complesso. Poi parliamo di Fondiere Assai, Unipol e Premafin, un po' di giallo su questi titoli. Buzzi, Unicem, Fiat e Parmalat, c'è il traffico però, a chi ci chiede di Grecia e gas, sono i due argomenti della prossima ora, quindi dalle 18.07 e in poi, qualche risposta anche sull'utilizzo di fitofarmaci, della chimica in agricoltura, devo darla, intanto però il traffico. Allora, Andrea Fontana, dicevamo, oltre alle banche, Fondiere Assai, Unipol e Premafin, al di là del cosiddetto faro della Consob, ma per quale motivo Fondiere oggi sale del 31%, Unipol del 30% e mi manca Premafin del 24%? Effettivamente effettivamente questo è il giallo di borsa di oggi e delle ultime due sedute. Tutti gli analisti e gli operatori commentano il fatto sottolineando che la cosa è inspiegabile visti i dati conosciuti, cioè l'operazione di doppia ricapitalizzazione e poi di integrazione dei gruppi assicurativi. Oggi tra l'altro è stata annunciata la definizione del consorzio di garanzia per il doppio aumento di capitale, quello di Unipol e quello di Fondiaria Sai, e quindi fin da questa mattina gli analisti commentano il fatto dicendo che non ci sono motivi per il rialzo, perché tutto al più l'operazione è diluitiva per gli azionisti. A meno che uno non scommetta in qualcos'altro, ma veramente non si capisce perché. Ma la scommessa su un OPA in arrivo, su l'arrivo dei francesi di AXA su Fondiaria Sai aveva, diciamo, era un po' circolata. A meno che se veramente non dovessero arrivare i francesi, non vi possa essere una contromossa, si è ipotizzato anche la Cassa Depositi e Prestiti, c'è cioè una contromossa del governo, non so. Sì, certamente cioè, se si scatena una battaglia per il controllo in mani straniere di Fondiaria Sai, allora sì, posso capire che uno vada a comprare il titolo nella speranza di una guerra, ecco. Sì, certamente c'è da dire che attualmente il mercato vede come prioritaria e come assolutamente probabile la soluzione Unipol. È chiaro che se qualcosa dovesse andare storto, e tutta l'indicazione oggi, la definizione del consorzio di garanzia, sembrerebbe negare questa possibilità, è chiaro che si aprirebbero altri scenari, per cui probabilmente la speculazione sta puntando decisamente sul fallimento di questa operazione Unipol Fonsai. Allora, Buzzi Unicem, visto che appunto non ne usciamo dalla vicenda Fondiaria Sai, Buzzi Unicem meno 5,14%, anche Autogrill pesante, meno 4,46%. Sì, per quanto riguarda Buzzi Unicem, oggi sono arrivati i conti della controllata tedesca Diverhof, conti che erano nelle attese per quanto riguarda il 2011, un outlook non troppo brillante per quanto riguarda invece il 2012, per cui il mercato ha preferito realizzare su un titolo che dall'inizio dell'anno ha fatto più 25% circa, quindi di questo va tenuto conto. Per quanto riguarda Autogrill invece hanno pesato alcune indicazioni negative di casa d'affari, mentre venendo ad altri titoli c'è da dire che si è un po' spenta quella speculazione al delisting, cioè a un'OPA che ritiri il titolo da Piazza Affari. Per quanto riguarda Parmalat, che ha perso il 2,55%, ricordiamo invece la settimana scorsa sulla scia di Benetton molti avevano scommesso che anche Lactalis fosse pronta a ritirare Parmalat dal listino e quindi avevano comperato a piene mani il titolo. Vedo su Unipol, su Premafin, scusatemi, un ascoltatore che scrive: non sarà magari per il diritto di recesso in caso di fusione? Sì, obiettivamente non glielo so dire, è stranissimo, anche se fosse su Premafin, che Fondiaria cresca del 31,3%, comunque che le Unipol crescano del 30%, cioè uno compra, l'altro è in difficoltà, ma obiettivamente è inspiegabile. Titoli Fiat, Fiat, perché intanto la Fiat ha speso, speriamo che siano convenute, qualcosa come 7 milioni di dollari per lo spot durante il Super Bowl di ieri sera in America, lo spot della 500. Pensate che la Super Bowl in America ogni 30 secondi costano 3 milioni e mezzo di dollari. Lo spot è durato un minuto, ce lo facciamo, ascoltiamolo, lo spot della Fiat 500. Ieri è andato in onda durante New England Patriots e New York Giants. La cosa interessante, oltre alla cifra 7 milioni di dollari, è che era in italiano. Che cosa guardi, eh? Che cosa guardi? Mi stai spogliando con gli occhi? Non puoi farne a meno, poverino. Ti batte il cuore, ti gira la testa. Sei persa pensando che sarò tua per sempre. The Fiat 500 Abarth. You'll never forget the first time you see one. Allora, 7 milioni di dollari per questo spot, speriamo che ne valga la pena. Era tutto in italiano, sottotitolato ed è una delle prime volte, io vado a memoria, che un gruppo italiano compra uno spazio, uno spazio più caro che c'è forse al mondo, quello del Super Bowl americano. Andrea, resta con noi perché vorrei commentare Fiat dopo il GR e dare alcune risposte anche sul tema dei fitofarmaci, della chimica in agricoltura e sull'evasione fiscale degli agricoltori. Molti di voi segnalano la cosa, l'abbiamo anche ricordata al presidente di Confagricoltura Guidi. Comunque ci sentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo l'approfondimento di borsa. Andrea Fontana, diciamo, della Fiat, al di là dello spot costato 7 milioni di dollari, il titolo oggi in sofferenza, sia auto che camion trattori, quindi sia Fiat che Fiat Industrial. Sì, Fiat Industrial ha perso il 2,8%, mentre Fiat oltre il 2%, chiaramente pesa sull'andamento l'annuncio di Standard & Poor's arrivato venerdì sera, che ha messo sotto osservazione il rating del gruppo torinese per un eventuale declassamento del rating, e questo in una situazione in cui le immatricolazioni non stanno andando troppo bene, anche per quanto riguarda la visione sul 2012, ha chiaramente penalizzato il titolo. È arrivata anche peraltro la notizia che Sergio Marchionne ha venduto 600.000 azioni ordinarie delle due società, sia di Fiat che di Fiat Industrial, di quelle che aveva dal piano di assegnazione di azioni gratuite ai manager, ma non è certo questo quello che ha pesato sul titolo, quanto appunto diciamo la spada di Damocle di Standard & Poor's che potrebbe tagliare il rating. Allora, migliori e peggiori, anche se migliori li abbiamo già detti in maniera inspiegabile, ripeto, il gruppo Fondiera Sai più 31%, Unipol che è l'acquirente più 30%, Premafin che è la controllante di Fondiera più 24%, fronte opposto Buzzi Unici meno 5,14%, l'abbiamo raccontata, anche Autogrill meno 4,46%, segnalo solo Bolzoni SPA meno 4% e Ageas meno 3,60%. Grazie a Andrea Fontana, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Un paio di risposte e poi andiamo con la Grecia, e poi dopo la Grecia anche il gas. Allora, sull'utilizzo della chimica, quindi l'agrofarma e fitofarmaci nell'agricoltura, il punto è molto semplice: è chiaro che devono essere limitati, e stando ai dati che abbiamo a disposizione si sono ridotti di un terzo, ma è inutile essere talebani, cioè non possiamo immaginare, per quanto tutti amiamo il cibo probabilmente biologico e quant'altro, non possiamo immaginare un'agricoltura italiana fatta solo di prodotti di nicchia. Ne abbiamo parlato molte volte con Confagricoltura, e soprattutto perché devi garantire la quantità della produzione oltre che la qualità. Allora lì il connubio, la ricerca è utilizzare il minor numero possibile di elementi chimici, ma non è immaginabile non utilizzarli proprio, non esiste nessun paese, e questo non ha nulla a che fare con la polemica degli OGM. Quindi fate attenzione, perché se no si diventa talebani sull'argomento, si immagina un mondo fatto tutto di biologico, che vorrebbe dire che è sostanzialmente poco meno dell'8% della produzione italiana complessiva, e gli altri 92% di campi che ne facciamo? E poi sulle dichiarazioni dei redditi degli agricoltori. Allora, sappiamo che sono bassissime, lo abbiamo detto più volte, avete anche sentito il presidente Guidi di Confagricoltura non essere d'accordo proprio con noi, perché ha detto, ma insomma, in modo che c'è adesso a noi andrebbe ancora bene, però siamo disposti a contribuire. È anche vero che delle volte il diesel, il carburante per utilizzo agricolo, viene utilizzato anche per altri scopi, come scrivono alcuni di voi, e va bene, ma è anche vero che delle volte gli immobili, vedremo come andrà a finire la dialettica tra governo e mondo agricolo, loro non vogliono pagare due volte l'IMU, alcuni di voi segnalano che in realtà delle volte vengono utilizzati per altri motivi, e volete sapere a quanto ammonta il reddito dell'agricoltura, adesso lo diciamo, però prima introduciamo il tema prossimo, che è chiaramente il tentativo di arrivare a un accordo in Grecia. Il 74% degli agricoltori italiani dichiara meno di 15.000 euro lordi l'anno. Questo è il dato ultimo che abbiamo a disposizione. Il ministro Cancellieri, sì, è lei che ha parlato poco fa, ma io non so. Allora, se non si vuole dare l'idea, e io sono d'accordo col governo, che la riforma del mercato del lavoro non sia punitiva, non vada a punire chi ha il posto fisso, non vada a punire con l'articolo 18 e rendere più facili i licenziamenti, che sarebbe sbagliato detto in questo modo, forse è il caso che i ministri stiano un po' più zitti. E mi riferisco, il ministro Fornero parla anche perché il suo di Castello, mi riferisco alle dichiarazioni che hanno citato poco fa i nostri GR del ministro Cancellieri. Che senso ha dire che si vuole il posto fisso vicino a casa dei genitori? Si fa solo polemica, spicciola, un po' come il Michel Martone sugli sfigati o il Premier Monti sulla monotonia del posto fisso. Meno battute come queste si fanno, secondo me, più il governo acquisisce serietà e viene creduto che non vuole fare una riforma in senso punitivo. Il tema del posto fisso non è sicuramente un tema in Grecia, in questo momento in cui il governo sta pensando anche di levare le tredicesime non solo al settore pubblico, l'ha già fatto, ma anche al settore privato. Vittorio D'Arold, buonasera. Buonasera a voi. C'è sto accordo o non c'è? No, non ancora. Allora. Il solito appunto tentativo che poi non riesce, dovrebbero rivedersi domani. Ecco, su questo però c'era l'ipotesi che c'era l'ultimatum delle 11 di questa mattina, no? Sì. Allora, che ultimatum è un ultimatum che può scadere senza che nulla capiti? È un penultimatum. Sulla base del quale il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea e il governo greco, i partiti greci, i sindacati greci dovevano trovare un accordo, perché in ballo ci sono 130 miliardi di euro che l'Europa deve dare, l'Europa, il Fondo Monetario, la BCE devono dare alla Grecia, ma non glieli daranno se non partono nuove misure di austerity. Cos'è che sta bloccando le nuove misure, Vittorio? Dunque, i partiti, soprattutto il partito di neodemocrazia, che è il partito conservatore in Grecia, guidato da Antonis Samaras, non vuole altre misure di austerità, perché naturalmente ritiene che questo non sia più sopportabile per i greci, e soprattutto perché dice manca la crescita. Cioè, se non ci sono aiuti alla crescita, il paese, che è al quarto anno di recessione, non potrà dare né rifornire quelle entrate fiscali necessarie per poter rimettere il deficit in bilancio. A questo punto ci sono in ballo due situazioni molto pesanti: la riduzione dei salari, chiesta appunto dalla Troica, perché se tu non puoi svalutare devi ridurre il salario come elemento di competitività, e nuovi fondi per salvare le banche greche, che dovranno partecipare alla perdita di potere, il cosiddetto taglio, la haircut dei bond greci. Quindi 130 miliardi non bastano, ce ne vogliono almeno altri 15. Però su questo, anche per far capire, mentre c'è stato il fronte della trattativa tra i fondi, cioè tra i creditori della Grecia e la Grecia, su come accordarsi sul rimborso, no? Con gli hedge fund, i fondi più speculativi che andavano a scommettere sul fallimento. Qui in gioco non c'è tanto il rimborso, Vittorio, del debito greco, cioè delle obbligazioni emesse dalla Grecia, ma è in gioco il prestito europeo e il fondo monetario. Sì, e anche la partecipazione della BCE a queste perdite, magari anche alle perdite che i governi hanno fatto con dei finanziamenti bilaterali. Ricordiamo che il primo piano da 110 miliardi è stato tutto bilaterale, governi, e quindi anche qui probabilmente c'è una pressione perché non solo i privati perdano circa il 70% del valore delle loro, del loro investimento, ma anche la BCE, che ha comprato titoli greci per sostenerli e che se andranno a maturazione però avrà un vantaggio, e i governi in qualche modo partecipino anche loro per aiutare appunto la Grecia ad arrivare almeno al 120%. Questa è la vera partita del gioco, sì. Ma Europa e BCE naturalmente prima vogliono vedere le carte e vogliono che i greci facciano la loro parte, ma ahimè ci sono le elezioni anticipate ad aprile e i partiti non vogliono altra austerità. Ecco, e su questo abbiamo l'ultima domanda che ho per te, la risposta dopo il traffico, e cioè c'è una data a questo punto che, se ho ben visto, è il 13 febbraio, cioè dopodomani, nel senso fra una settimana. Allora, se il 13 febbraio la Grecia non avrà trovato entro il 13 febbraio gli aiuti, non riuscirà a pagare una tranche, sono quasi 15 miliardi di titoli greci in scadenza il 20 marzo, cioè non avrà più i tempi tecnici. A quel punto si dice uscirà dall'euro. Molti ascoltatori chiedono: ma perché se la Grecia fallisce esce dall'euro? Io vorrei anche sapere da te se la Grecia non può in realtà tentarla tutta e dire tanto non ci faranno fallire. Dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Vittorio Darold, perché si dice che se la Grecia non riuscirà a ripagare questa tranche fallendo uscirà dall'euro? E non potrebbe essere questa la scommessa molto azzardata, però greca, da dire tanto non ci farete fallire, cioè l'Europa, l'area euro piomberebbe di nuovo nel buio che ha conosciuto in questo anno e mezzo, si troverà comunque una soluzione? Sì, il 20 marzo in realtà appunto è la data quando scadono questi 14 miliardi di bond. A quel punto la Grecia effettivamente ha circa 11 miliardi nelle casse, quindi non avrebbe la possibilità di pagare tutti i bond in scadenza, ma il vero problema è come fare, sono due problemi diversi, cioè tu hai un problema di restare e di pagare, e quindi di default, e poi un problema di restare in una moneta unica. Le due cose non sono collegate, nel senso che uno può avere un problema di default ordinato, come sta appunto andando, cioè si mette d'accordo con i privati. Ti ripago di meno, però non, cioè fallisco, ma ristrutturo il mio debito, non è un fallimento di quelli poi, in cui chiudo i battenti. Esatto. Esattamente, poi non provoco soprattutto effetto contagio, non provoco effetto panico, non provoco il timore che questo si sposti al Portogallo, cioè che questo problema che non viene risolto in maniera ordinato si possa trasmettere al Portogallo, che ha gli stessi problemi, cioè ha un forte debito e non ha crescita, e quindi anche qui prima o poi qualcuno potrebbe dire facciamo come in Grecia, cioè ricominciamo anche con il Portogallo a chiedere una quuota ai privati, alla BCE e ai governi europei, e quindi questo sarebbe l'effetto domino, e allora sì, sarebbe un problema grave. Ecco perché la Grecia è importante metterci questo firewall, questa cortina che lo, cioè che pilotare blocca. Il fallimento greco in maniera che non faccia male, ecco, che non crei danni. Staremo a vedere, per oggi un'altra giornata persa, si riparte domani. Grazie Vittorio Darold. Noi della Grecia ci spostiamo alla Russia, o meglio alle forniture di gas russo, o alle non forniture di gas russo all'Italia. Il rischio c'è, lo stanno confermando tutti ormai, anche perché la situazione si è aggravata dopo lo stop del rigassificatore di Rovigo, fuori uso a causa del mare grosso. Praticamente l'Italia, che importa l'84% del suo fabbisogno dall'estero, tramite, a colpa delle temperature rigide ma anche della riduzione del 20% delle forniture russe, insomma, Snam, Rete Gas, ha fatto ricorso agli stoccaggi. I consumi giornalieri intanto sono saliti a 440 milioni di metri cubi, contro una media stagionale di circa 380 milioni. Vedo che alcuni chiedono: ma perché non si fa un'ordinanza prefettizia per abbassare la temperatura dei riscaldamenti nelle abitazioni private? Nei luoghi di lavoro già c'è, eh? Però Federico Rendina del Sole 24 Ore, buonasera Federico. Buonasera. Ascoltiamo il numero dell'ENI, Paolo Scaroni, ieri ai nostri microfoni ammettere che la situazione regge fino a mercoledì, da giovedì poi vediamo, ci potrebbe essere un taglio del gas per le imprese. siamo in emergenza e abbiamo reagito all'emergenza aumentando le importazioni dall'Algeria e dal nord Europa attraverso la Svizzera. Quindi non abbiamo problemi fino a mercoledì, nel senso che ci attendiamo un'altra ondata di freddo in Russia e non sappiamo che comportamenti avrà la Gazprom giovedì e venerdì. Quindi attendiamo e ci stiamo preparando a momenti ancora difficili. Per questa ragione c'è la riunione del Ministero dello Sviluppo Economico per prepararci a un'ulteriore emergenza che potrebbe venirci addosso tra giovedì e venerdì prossimo. L'ipotesi peggiore quale potrebbe essere? Ma dunque, l'ipotesi peggiore potrebbe essere che se dovesse mancare del gas bisognerà intervenire sugli interrompibili, cioè quelle aziende che hanno dei contratti in cui si può interrompere il flusso del gas e mettere in atto tutta una serie di misure che il Ministero ha già preparato da tempo per far fronte a questa emergenza. E oggi il ministro Corrado Passera ha confermato che la situazione del gas è critica anche se è monitorata. Ascoltiamo la margine della Mobility Conference qui a Milano. In questi ultimi giorni abbiamo seguito con grande attenzione l'afflusso del gas soprattutto dalla Russia e sono state immediatamente attivate altre fonti dal Nord Africa e attraverso l'utilizzo degli stoccaggi eccetera. Ieri, alla luce della fortissima utilizzazione di gas in Italia che ha raggiunto i livelli massimi, abbiamo attivato lo stato di allerta in modo tale da poter avere a disposizione ulteriori strumenti in caso di bisogno. Oggi valuteremo se c'è da fare altro. Quindi situazione ben monitorata, reazione immediata sia delle aziende sia delle strutture pubbliche che hanno questa responsabilità. Sarà molto in funzione anche dell'evoluzione del tempo. Le riserve sono lì, sono a disposizione, anche in termini di stoccaggio potremmo fare qualcosa di più. Allora, Federico Rendina, una domanda forse così un po' imbecille, ma mi vengono bene. Ma scusami, visto che noi importiamo un terzo dalla Russia, un terzo dall'Algeria e un quinto dal Mar del Nord e poi un altro 10% dalla Libia, ma non basterebbe incrementare la quota algerina? Prima domanda. Seconda domanda, come vanno gli stoccaggi? Perché a noi risulta che 8 giacimenti della Stogit, la società di Snamrete Gas che stocca il gas, siano già esauriti. Prego. Dunque, in realtà dall'Algeria stiamo importando un pochino di più, stiamo importando un pochino di più anche dalla Libia, nel senso che stiamo massimizzando le importazioni da questi canali. Però teniamo conto che in Algeria hanno i guai loro in queste ore e in questi giorni, nel senso che per quanto sia un paese del Nord Africa tradizionalmente caldo e tradizionalmente al riparo dai rigoli invernali, ecco, lì sta nevicando in Algeria e anche loro hanno i loro problemi che per ora non si stanno ripercuotendo sui gasdotti e quindi sulle forniture all'Europa, però chi lo sa che cosa potrebbe succedere. C'è da dire però che nelle ultime ore il panorama, come dire, ha evidenziato due segnali che si compenetrano tra di loro in termini, l'uno diciamo un pochino consolante, l'altro problematico. Il segnale consolante è che dalla Russia arriva l'annuncio che la situazione si sta normalizzando. Ecco, degli annunci russi noi abbiamo imparato a fidarci fino a un certo punto, però questi annunci vengono certificati nel frattempo anche dagli osservatori e dagli esperti dell'Unione Europea, tant'è che i dati che stanno arrivando in queste ore mostrerebbero, come dire, un dimezzamento del taglio delle forniture all'Italia, quindi questo sembrerebbe avvalorare l'ipotesi che diciamo l'emergenza si sta in qualche modo attutendo. Però quello che sta succedendo in questi giorni mette in luce che il problema strutturale che noi avevamo continuiamo ad averlo, quindi c'è un problema appunto di equilibri delle nostre forniture. Teniamo conto che nei prossimi anni entrerà in funzione un nuovo gasdotto che è il Galsi attraverso la Sardegna, ma il punto di captazione di questo gas è sempre quello algerino, quindi dobbiamo diversificare le forniture e forse ha ragione chi dice che poi la via, diciamo, complementare per questo rafforzamento può essere solo quella dei rigassificatori. Sì, solo che si è bloccato l'unico che abbiamo, quello di Rovigo, per il Mare Grosso. Comunque, Federico, torneremo sul tema, anzi spero di no, spero che sia l'ultimo collegamento, spero che domani la situazione torni tranquilla. È vero che dal famoso blocco dello scontro diciamo Russia-Ucraina a suo tempo poco sembra essere cambiato, se bastano due giorni per rimettere di questo tipo per rimettere il paese in difficoltà. Grazie collega del Sole 24 Ore. Leggo solo l'ultima agenzia, Emma Marcegaglia, margine dell'assemblea di Confindustria a Padova, ha detto sull'articolo 18: non va toccato per i licenziamenti discriminatori un fatto di civiltà, ma per tutti gli altri casi bisogna diventare europei, e se c'è un licenziamento giusto l'imprenditore deve pagare un'indennità a seconda della gravità della cosa, ma in nessun altro paese c'è il reintegro per motivi che non siano discriminatori. Penso che la frase sia: se c'è un licenziamento ingiusto l'imprenditore deve pagare. Forse c'è un errore nell'agenzia. Comunque, l'ultima notizia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.